Io credo che il mobbing è un argomento di cui si è parlato molto ultimamente da un punto di vista dei mezzi di informazione, però sempre con una visuale un po' particolare, molto, molto legata all'individuo. Io invece credo che il mobbing sia un'espressione di un sistema economico, di un sistema sociale che tende proprio a striturare quell'individuo che non serve più. Ha quindi un significato, per me ovviamente, molto politico e molto sociale, ed è il motivo per cui mi sono poi, da giornalista, messa ad indagare un po' il fenomeno. Ovviamente non sono un'esperta, gli esperti di questo fenomeno sono sostanzialmente medici del lavoro, sindacalisti, psicologi, psichiatri, avvocati. Io quello che ho fatto è cercare di dare un'idea di che cosa può significare lavorare in un'azienda e ad un certo punto sentirsi escluso ed emarginato senza un motivo reale. Questo motivo reale potrebbe essere invece l'utilità che l'azienda ha di estromettere qualcuno dal lavoro, qualcuno che magari è forte dei propri diritti conquistati in 20 anni di lotte sindacali, ma che è debole perché oltretutto ha un contorno di colleghi che non lo supportano più, perché a differenza degli anni 60-70, in cui sui luoghi di lavoro c'era comunque della solidarietà, oggi è già più difficile trovarne. I settori sono quelli, diciamo, forniti dai dati che mi sono stati forniti da chi si occupa di queste cose, sono un po' tutti veramente, molto pubblico, devo dire, quindi ministeri, pubbliche amministrazioni, dove è anche, come sappiamo, molto difficile, per esempio, eliminare un soggetto non gradito al management, come si dice oggi, però mi sembra veramente una pratica piuttosto trasversale che ha, come dicevo, a che fare con un sistema economico e del lavoro che tende a escludere coloro che non si omologano in qualche modo. Quindi il mobbing io lo vedo più come un attacco che non come un conflitto. È stato definito spesso appunto un conflitto poi portato alle estreme conseguenze. No, io credo che sia proprio un attacco al singolo lavoratore, perché il lavoratore da solo è, come dire, più debole.